Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mertens compare dal nulla, Mertens! Napoli 7 bellezze al Dall'Ara, 7-1, 7-1, 7-1. Finisce allora 33-7 vittoria del Galles, un ottimo primo tempo di cui essere orgogliosi, ma poi onore al merito dei gallesi, la vittoria va a loro. Da Muriel, la Sampdoria in vantaggio, 40° gol in Serie A per Luis Muriel. Ecco il cross dentro, Parolo ancora 6-2 e poker di gol. Petagna si libera di Cepitelli, largo Gomez, servito adesso, fonda l'uno contro uno con Pisacane, Papu Gomez la fa girare e sono due. È finita e adesso è tutto vero, questi leoni sono davvero indomabili, il Camerun torna a vincere la Coppa d'Africa, non accadeva dal 2002, dai tempi di Samuel Eto'o. Attenzione a Cuadrado, zona tiro, Cuadrado, gran botta, rete, gol meraviglioso, Cuadrado manda in estasi lo Juventus Stadium, la Juve al 45esimo dopo aver sofferto, è in vantaggio. Toss to White. He's in. Patriots win the Super Bowl. Nel weekend una spremuta di eventi storici, belli, polemici, comici, caricaturali se volete, come l'1-7 di Bologna del Napoli. Però io l'aria l'ho già capita, anche Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzari in redazione, Alessandro Marcotulli che lì che ride, Pierluigi Pardo, l'aria l'abbiamo, l'ho capita io e l'hai capita tu per questa sera tiki-taka, no? Tipico caso da Moviola in campo, Mandzukic tocca il pallone che poi è toccato da Icardi che viene travolto, rigore netto massimo. Noi interisti dobbiamo, bello questo, dobbiamo piantarla di fare piangina, i due rigori non c'erano, imbarazzante Pioli nel dopo partita, Luca. Pioli critica l'arbitro per il rigore non dato, ma il fallo di mano di Medeli in aria non parla nessuno, siamo superiori, forza Juve. L'aria l'abbiamo già capita. Sì. L'aria è quella. La nostra preferita, la nostra preferita, 800 24 00 24, il numero verde. L'Inter si lamenta molto dell'arbitraggio di Rizzoli, lo ha fatto anche Moratti poco fa, mi sono arrabbiato con Rizzoli anch'io, vabbè, uno tra i tanti interisti. Io sottolineerei la buona partita dell'Inter, che comunque è uscita a testa alta dalla terra che nessuno riesce a conquistare, almeno in Italia, lo Juventus Stadium. Ci sono mille cose, guarda, mai come stavolta è veramente stridente secondo me il contrasto tra la bellezza della partita, sì, e la coda polemica. C'è stata una partita veramente in questo italianissima che ci ha riportato, noi stasera abbiamo Fabio Cannavaro ospite in studio e partiremo proprio da qui, perché ci ha riportato a quella che è la forza del nostro calcio, no? Che è un, sì, calcio anche polemico, è un calcio anche nervoso, è un calcio basato anche sullo spottò continuo e sul pensar male in qualche circostanza, però è stata una partita dal sapore antico. Cioè, sarà una partita ben giocata. Benissimo a tratti da tutte e due le squadre. Sì, sono la d'accordo. La Juve, secondo me, comunque qualcosa di più ce l'ha. Allora, la Juve, così come è disegnata adesso e in queste condizioni, per il nostro campionato è illegale. Soprattutto, sì, in casa. Ma soprattutto, sì, soprattutto allo in casa. Stadium. Soprattutto in casa, e non credo che ci sia molto da discutere, cioè, nel senso che comunque ha vinto faticando, soffrendo di poco con la Roma, ha vinto faticando, soffrendo di poco col Napoli, adesso ha vinto faticando, soffrendo di poco con l'Inter, in casa le vince tutte, cioè, questo è il dato oggettivo. Poi semmai questo, se vuoi, può essere anche considerato in qualche modo un boomerang, perché nel giro di ritorno ci sono due trasferte in casa del Napoli e della Roma che possono in qualche modo proprio per un discorso simmetrico, lasciare aperto qualche spiraglio per le inseguitrici, ma la verità è che la Juve le occasioni non le fallisce mai, possiamo adesso parlare di polemiche di Moviola per mezz'ora, sì. Però il dato politico, tra virgolette, cioè il dato complessivo della serata di questa, è che poi alla fine la Juve queste partite le porta a casa. Secondo te i rigori c'erano? Secondo me no. Secondo me no, anche se sinceramente il rigore su Mandžukić su Icardi è una classica situazione di palla e gamba. Prende la palla. Se l'avessero fischiato, secondo me non sarebbe stato un rigore da scandaloso. No, però è stata una partita difficilissima da arbitrare, però nel compenso. Con Cesari, che secondo me io non l'avrei dato, tanto per essere chiari. Io dopo aver visto le moviole non l'avrei dato, perché sennò comunque un contatto col pallone c'è. È un intervento spericolato, è un classico intervento da difensore in una zona che non conosce bene, che è la propria area di rigore. E quindi, insomma, se l'avessero dato non sarebbe stato scandaloso, però secondo me alla fine la decisione è corretta. E sull'altra situazione, a me dei due, nel caso mi sembra più contatto quello su D'Ambrosio. È vero che tutti e due sbracciano, ma quello di Chiellini mi sembra semplicemente che faccia una specie di taglia fuori col braccio un po' largo, ma sono situazioni che in area di rigore si vedono in maniera abbastanza clamorosa. Ecco, se avessero dato il rigore su Icardi, secondo me sarebbe stato clamoroso. Sì. Il rigore di Mandžukić, scusami, di Icardi Chiellini sarebbe stato clamoroso. Il rigore Mandžukić Icardi, se l'avessero dato, secondo me non sarebbe stata una cosa clamorosa, però secondo me alla fine era giusto non darlo. Sì, anche secondo me era giusto non darlo, poi dateci pure i juventini, insulti, tutto quello che volete. Perché fa parte del gioco, ma che ce ne frega noi. 800-24-0024 è il numero verde. Già vi anticipo che l'ospite dopo il traffico sarà un sodale abituale commensale di Pardo Antichitaca, cioè Gian Piero Mughini. Ma poi sentiremo anche Tommaso Labate e poi parleremo anche di Cooper di nuovo sconfitto in una finale, e questa è una storia incredibile. Conte che si butti in mezzo ai tifosi del Chelsea, la crisi del Milan. Un'altra leggenda, quella di Tom Brady. Una settimana dopo Federer, al Super Bowl è successo qualcosa di mai visto, cioè una rimonta da 0 a 21 fino alla vittoria nel supplementare 34 a 28 per i Patriots, ma poi ce ne parla Cruciani. Cioè abbiamo un sacco di roba da raccontarvi. Tutti convocati. Sono molto contento per quello che hanno fatto i ragazzi, è stata una bella partita, credo che sia stata una partita di livello altissimo, da quarti finale, semifinali di Champions. Il primo tempo è stato molto bello sia da parte nostra che da parte loro, con occasioni nostre, occasioni loro. Poi l'abbiamo sbloccata, il secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla, e non siamo riusciti, abbiamo concesso qualche contropiede dove abbiamo difeso molto bene. Beh, qui passiamo da interista, no, ho visto la partita e non il post partita, non c'è nulla da lamentarsi, la Juve è più quadrata, vabbè, gioco di parole, con merito, noi abbiamo giocato una buona gara. Voi non riuscite ad andare contro il potere bianconero, peccato, ma che ce ne frega del potere bianconero? Non, no, ce ne frega, assolutamente. Ma quale potere bianconero? L'anno scorso abbiamo fatto 40 minuti di puntata sull'arbitraggio di Torino-Juve. Ma sì, Pierluigi, dai, lasciali sfogare, poi lasciali parlare. 800-24-0024, parlerà anche Tommaso Labate. Io ho la fortuna di avere un signore che si chiama Graziano Cesari, che in questi anni ha detto la sua tante volte contro la Juve, tante volte a favore della Juve, tante volte contro l'Inter, tante volte a favore dell'Inter e via, non ve le dico tutte e 20. Ma cioè sì, che, ma sai, ma gli occhiali poi, colorati poi, li lasciamo a chi vuole tenere a portarli. Facciamo un discorso vero, diciamo più di una mozione d'ordine, si diceva una volta, sì. È un casino, il gioco del calcio. È un casino, è stata una partita incasinatissima, difficilissima da arbitrare, ha portato a casa un 6 risolto. Il contatto Icardi è un contatto veramente borderline, quindi nessuno sta dicendo che è una roba assurda, che sarebbe... Il dibattito è aperto, è ovvio. Il dibattito è aperto. Gian Piero Mughini, buongiorno. Buona giornata, cari dibattenti. Senta, sarà il caso di aggiungere un nuovo capitolo vocale all'ultima fatica letteraria? Sempre una gran signora, lettera d'amore alla nuova Juventus. Aggiungiamo un capitolo, magari dal titolo Terra Proibita, riferita allo Stadium? No, non credo che si debba aggiungere questo capitolo, perché insomma è un po' implicito nel racconto fatto in questo libro. Certo, lo Stadium è una delle più grandi risorse della Juventus per come è rinata dalla distruzione di Calciopoli. Lo stadio, non dimentichiamo che il progetto era stato del gruppo dirigente precedente, Moggi Giraudo, è una realtà simbolica, psicologica e tecnica, perché indubbiamente quel catino in cui il pubblico è come se avesse la partita nel salotto di casa sua, dà ai giocatori, ai calciatori un'energia, una sicurezza, un'autoidentificazione straordinaria. Poi c'è la partita, poi c'è il campo, poi ci sono i 22 giocatori. Io credo che quella di ieri sia stata una bellissima partita, sì. Che l'Inter, come ha detto Allegri nel pre-match, è una squadra da trofeo, cioè una squadra che l'anno prossimo competerà per il trofeo. La partita di ieri è finita 1-0, su questo non ci piove una sola goccia. Certo, e l'Inter esce, come stavamo dicendo con Pierluigi, con l'onore delle armi e un sottofondo di lamento per le solite questioni arbitrali, no? Ma sai, il sottofondo di lamento, insomma, il sottofondo di lamento dovrebbe proprio essere un sottofondo, nel senso ovviamente che la sconfitta dà amarezza, e nel senso che nei 90 minuti di una partita ci sono episodi che, come voi dite, possono essere dibattuti. Una cosa diversa, secondo me, è quella di un mister, peraltro quanto di più valoroso, mi riferisco Pioli. A Pioli, che a fine partita al microfono dà per certo che la sua squadra è stata rapinata di ben due rigori, due accidenti, neppure uno, due. Questo io penso che non sia il massimo dell'eleganza. Il campo ha la sua voce, ha le sue regole, il suo risultato, poi il sottofondo ci mancherebbe. È su questo che sfrucuglierà i Mughini stasera, Pardo? Beh, anche su questo. Abbiamo anche Cannavaro stasera che ha giocato nella Juve, nell'Inter, che ne ha viste di tutti i colori. In qualche modo averlo stasera 10 anni e mezzo dopo il mondiale in qualche modo è ancora più interessante, perché mi sembra che la Juve-Inter di ieri, dal punto di vista polemico, proprio nel giorno della stretta di mano fra Agnelli e Zhang, nel giorno del ritorno alla normalità, questa è una cosa molto bella che deve essere sottolineata, insomma era un'anomalia abbastanza clamorosa, legittima, perché ognuno poi va dove gli pare, ma era un'anomalia il fatto che da tanti anni i dirigenti dell'Inter da 19 anni non dassero il prospetto in casa della Juve, che credo che sia un fatto positivo comunque in assoluto per la cultura dello sport in Italia, che tutti i presidenti vadano in tutti i campi, che ci sia un clima di rispetto reciproco. Da questo punto di vista mi sembra che chiaramente la nuova gestione di Zhang ha progetti talmente grandi, talmente ambiziosi, e ovviamente non ha quella memoria storica, per cui va dove vuole. E secondo me è pronta anche a fare affari con la Juve, se c'è un beneficio per l'Inter, no? Al di là di tante rivalità. Però siamo tornati poi dal punto di vista del post partita, amplificata poi dai social network che Giampiero ama tanto, a tutta una serie di spottò e di polemiche da una parte e dall'altra, alcuni dei quali anche molto divertenti. Ma ripeto, adesso fra un po' sentiamo l'Abate, che è un altro che ci ha dato dentro. Devo dire la verità, lo ribadisco, è nella logica delle cose, cioè così come ti dico che poi secondo me alla fine, riguardandolo mille volte, quello lì è più no che sì, il rigore di Mandžukić sui Icardi, però io posso anche capire il rammarico e la delusione dell'azzurra. Ecco, dire che c'erano due rigori o tre rigori così in maniera assolutamente aprioristica, secondo me è esagerato. No, io sottolineerei la crescita dell'Inter nella partita di ieri sera. Sottolineerei la crescita dell'Inter, che è un'altra cosa rispetto a quella che ha iniziato il campionato. Questa è una squadra che entra di diritto nonostante la sconfitta, e alla fine il risultato vale, conta per quel che conta, cioè non tantissimo in termini di classifica, ma questa è una squadra che entra di diritto nelle pretendenti a un posto in Champions League, che è quello che vuole. E dunque mi domando piuttosto, lo domando a Giampiero Mughini, se questa è una Juventus d'Europa. Ma sì, sai, con questo modulo e con questa certamente faccia. Certamente, io penso che sia fra le 10 squadre più forti in Europa, fra le 10. Non sto parlando delle 10, Giampiero. Due sto... o tre, questo no, assolutamente. Poi non è detto che ad arrivare alla finale sia necessariamente una delle due o tre o una delle 10. L'Atletico Madrid che è arrivato, cioè, secondo te non è tra le prime due o tre, non è tra le prime quattro o due o tre, però accidente, una squadra talmente solida. Ma sai, ma poi la domanda è oziosa per due motivi. Primo, perché il calcio che si giocherà a marzo, perché ciascuna di queste squadre giocherà a marzo aprile, non è il calcio di gennaio e dicembre. E poi siamo lì, è inutile ripeterlo per la 150.000esima volta, una partita di Champions si gioca, quanti sono? 90 minuti, altri 90, è una partita, ieri in fondo a risolvere è stato un gran tiro da fuori, no? Mm-hmm. Se finiva a parità nessuno avrebbe potuto e allora è così la Champions. Infatti, contrariamente a molti di voi, io non sono così ipnotizzato dalla Champions. Sarà perché abbiamo conquistato il record di finali perdute. Sì, per quanto io mi domando per quanto il calcio italiano possa ancora permettersi la tiranni del regime totalitario bianco-nero prima di cambiare canale. No, io penso che non sia una tirannia, no, insomma, no. E poi lo vedete invece, non c'è affatto una tirannia. Ancora ci sono i due scontri diretti, Juve-Napoli, Juve-Roma, ed entrambi si giocano fuori casa. Quindi non c'è nessuna tirannia. C'è per adesso una classifica che è favorevole alla Juve, non c'è nessuna tirannia. Grazie Giampiero. Ciao a tutto. Ciao. Compardo, ti vedi questa sera. E anche con la Bate. Anche con la Bate. Pensieri un po' diversi, immaginiamo. Avrà pensieri un po' diversi, però io continuo a domandarmelo, per quanto il calcio italiano possa... Dai, tirannia sì, la Juventus va verso il sesto scudetto, possiamo fare tutte le chiacchiere che vogliamo, di qualunque tipo, Pierluigi. E questo è un problema sportivo, è un problema anche televisivo, se mi permetti. Sì, è un problema, insomma, è chiaro che l'equilibrio sa qualcosa che ha visto il Super Bowl ieri, una partita che si è risolta in rimonta alle 4:30 di mattina, per cui sono molto lucido oggi, ma ne valsa veramente la pena. L'equilibrio fa parte della bellezza dello sport, non c'è dubbio. Tutti diciamo noi che lavoriamo, che in qualche modo ci mangiamo anche col pallone, ma non perché ce ne viene qualcosa dal punto di vista dello stipendio, ma perché è normale che abbiamo voglia e piacere se una cosa è interessante, no? E quindi tutti desidereremo un campionato aperto fino all'ultima giornata e delle squadre italiane in corsa nella finale di Champions. Penso che tutti noi sogniamo una finale Juve-Napoli Champions League, fammi sognare un attimo. Vabbè, questi sono sogni, sono quasi sogni erotici, questi sono sogni erotici, calcisticamente erotici. Punto di partenza. La dittatura della Juve è evidente, perché comunque non è il primo anno che vince, ma questo potrebbe essere il sesto anno e ci sono tutti i segnali perché questo avverrà. Poi, come sempre nella vita, succedono delle cose che possono cambiare, però poi tutto finisce. Però è ovvio che la Juve ha preso un bel passo di vantaggio, che era quello che aveva avuto l'Inter negli anni murignani. Io no, ma infatti guarda che non sto parlando nemmeno di calcio, sto parlando di sport. Cioè, se la Mercedes vince 9 titoli consecutivi, chi la guarda più la Formula 1? Se Milano vince 12 scudetti in fila, chi lo guarderà mai più il basket? È un problema veramente sportivo a tutto tondo. Sentiamo Alfredo dalla provincia di Bergamo, poi andiamo in borsa. Buongiorno, mi consenta, volevo solo semplicemente una cosa, non è cambiato nulla, secondo me io non voglio mettere in discussione la forza della Juventus perché è una squadra fortissima, ma secondo me non è cambiato nulla dagli anni di Calciopoli ad oggi, basta guardare le simulazioni, non voglio parlare dei rigori, basta guardare le simulazioni dei Chiellini, dell'Ecksteiner, le aggressioni verbali agli arbitri che si possono permettere i giocatori della Juventus e quelle che non si possono permettere i giocatori di altre squadre, questo è il mio parere. Voi siete dei professionisti di vostro lavoro, e non metto in dubbio che voi tirate l'acqua dal mulino della Juventus. Noi non tiriamo l'acqua da nessuna parte, Alfredo, mi consenta anche lei. Cioè, voglio dire, ma che tiriamo l'acqua da un mulino? E valutiamo quello che vediamo, che qualche volta può essere quello che saremo d'accordo con lei, qualche volta non siamo d'accordo con lei, insomma. Io mi ricordo lo scorso anno, stesso arbitro Torino-Juve, di essere stato molto critico sulla direzione di Rizzoli, perché c'erano stati tanti episodi che in qualche modo quella partita avevamo cominciato, certo. E parlo della prima partita che mi viene in mente. Ma sì, ma è chiaro. La partita di ieri, ripeto, si può discutere. Cioè non si può discutere, ma come la Juve, come la Juventus posso, discute... Posso arrivare ad accettare il ragionamento che qualche mio amico interista ho sentito faceva in queste ore, cioè il dubbio, no? Il dubbio di dire, però... si poteva anche dare, sicuramente, lo ribadisco, se avessero dato quel rigore lì si poteva dare. Sì, non lo trovo scandaloso. Poi ci sono gli juventini che ricordano il rigore non dato a Firenze, il rigore non dato a Genova, il gol valido non concesso a Milano, insomma è un discorso da cui tanto non usciamo più. Allora Borsa, poi torniamo con Tommaso Labate che avrà le sue da dire. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Tutti convocati. Va addosso a Icardi senza assolutamente vedere il pallone, quindi lì ho visto dare rigori per molto meno. Quello è rigore, tecnicamente. Secondo me rigore. Poi... C'è, ma c'è Rizzoli. Secondo me è rigore netto quello. C'è il bolognese, si vede, l'arbitro più bravo d'Europa. Rallentatore... C'è l'arbitro più bravo d'Europa. Rallentatore sembra rigore netto. Io ho ancora la possibilità di andare a prendere il pallone. Se tu però non mi dai più la possibilità. Io sono calmissimo, guarda. Guarda questo impatto qua. Qui tocca il pallone e non c'è nessun impatto tra le gambe. Guarda, la gamba. Ma successivamente. Lui ti ha chiesto. Sì. Se tocca il pallone e poi c'è contatto, è rigore o no? In questo caso no. Scusa. Chiellini è uno molto fisico che sbraccia sempre molto una Gaia, quindi gli arbitri lo sanno. Però Rabbi, non intervengono. Poi Chiellini è abbastanza, racconta credo la sua storia personale, cioè la differenza di cartellini e espulsioni in campionato in Europa. Non hanno detto una parola dei rigori, una parola. Se fossero stati rigori a favore della Juve non dati, ne avrebbero parlato ininterrottamente dal trentesimo del primo tempo fino ad ora senza parlare di altro. Però se c'è un rigore me lo devi dare, lo voglio. Lo voglio, poi dopo posso anche perdere 10-1, 8-1, 9-1, però me lo devi dare se il rigore c'è. Se il rigore c'è, lo voglio. E nel primo tempo ce n'è uno spappolato. Questo è un bellissimo blog che ha costruito Giorgio De Luca frugando tra le varie TV locali e non, naturalmente. Allora, ci sono già ascoltatori in linea, Simone Domenico Renato già lì. Io sono già praticamente stufo al quarto d'ora del primo tempo di parlare di questi episodi. Tommaso Labate invece no. Buongiorno. Ciao a tutti. Non è stufo. Allora, tanto per cominciare, il nuovo TV coreano non funziona più? No, sei inceppato. D'altronde la Juve, diciamo, fa inceppare la TV coreana, così come le squadre, il contesto europeo, le squadre europee inceppano la Juve. Funziona, diciamo, solo sul territorio nazionale. Sì. Hai letto i tweet di Tommaso Labate, Pierluigi? Sì, ho letto il tweet, anche se dobbiamo dire che Labate il suo weekend è comunque stato un weekend vincente perché ha vinto nella mattina del sabato mattina dopo circa 4 mesi, e quindi questo è stato, insomma, diciamo Juve-Inter è stato un dettaglio, no, immagino, del tuo weekend. Però ho letto, ma è vero che Moggi ha aggiunto ai preferiti un tuo post ieri sera? Sì, ma lo fa spesso. Ma quel Moggi lì, Luciano, il signor Luciano? Sì, è lui. Okay, da Twitter, okay. Non l'hanno radiato ancora. No, ma è Twitter o Facebook? Mi sa che era Facebook. No, su Twitter era. Evocava il signor Ceccarini. Ma quale? 12 contro 11 come sempre, Juventus-Inter, Ceccarini presente, complimenti? Secondo me era Ceccarini presente, complimenti. Avrà, secondo me, qualche familiarità con le cose contenute in quel tweet, per cui avrà ritenuto opportuno metterlo tra i preferiti. Io poi, tra l'altro, come dire, lo leggo, lo seguo, sento quello che dice e stop. Vabbè, Tommy, ma c'erano sti rigori, ti allora, senti, ragazzi, derubato? Non voglio fare nessunissimo tipo di polemica, non starei mai qui a dire, a sostenere che la Juve non meritava la partita, che la Juve è più forte, tutto quello che volete, ma quei due rigori ci sono, punto. Cioè, non c'è sostenere il contrario è un pochino come alimentare la post verità, le fake news, eccetera. Bastava semplicemente sostenere l'intervento, come fa Mandžukić su Icardi, di fatto palla e pallone, quello è un calcio di rigore, ma se ha visto a velocità normale, è un rigore che fra l'altro non si può non dare. Poi il fatto che Icardi non protesti o meno, perché molti sostengono, ma non ha protestato neanche Icardi, allora scusate, Ronaldo protestava tutta la panchina all'epoca, Giuliano eppure, no, all'epoca, protestare non è un metro, e secondo me c'era anche il rigore su D'Ambrosio, cioè, tirare la maglia in quel modo, nell'area di rigore, con l'azione in gioco. Quindi D'Ambrosio, non Icardi, Chiellini, perché lì ci sono due situazioni, tutti e due. Sì, c'erano due rigori in uno, in quello lì, però non pretendevo di tirarne due, che mi mettevano due volte sul dischetto per farne, per magari andare 2-0, ma lì basta che me ne dai uno. Basta che me ne dai un altro su Icardi Mandžukić, o basta che non me ne dai nessuno di due, ma semplicemente a fine partita dici, ragazzi, c'erano i rigori, l'arbitro può sbagliare, nessuno avrebbe fatto grandi polemiche. Non voglio riaprire discussioni vecchie, anzi, tra l'altro sono stato pure contento di sapere che la proprietà dell'Inter per la prima volta dopo tanti anni è andata allo Juventus Stadium. Sì. Sono per chiudere una fase. Però basta semplicemente dire, non appellarsi alla pre-verità o alla verità, non alla post-verità. Quelli sono due interventi per cui sono 99, sì, come 100 da, sanzionati, Tommy, come, col calcio di rigore. Come si sottolinea da parte di Juventina, è stato fatto a Firenze, ad esempio, per un rigore non dato, a Genova per un rigore non dato, a Milano. Ma io non per mi sono messo a Firenze, a Genova, dato, a sostenere che la Juve non avesse ragione o no. Quei rigori là, sono calci di rigore, si picchiano. Sì, io posso trovare dei professori di chimica che sostengano che l'acqua è fatta da H4O2. Fatti loro, non so, io sono il professore di chimica, l'acqua è H2O, come quei due sono rigori. Sostenerlo non toglie i tre punti alla Juve. Vabbè, ragazzi, vi lascio alla corte popolare, a cominciare da Simone. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei dire che l'Italia ormai è un paese dell'etica sportiva smarrita. Ci sono dei comportamenti evidenti che ne lasciano traccia. L'anno scorso il signor Rizzoli addirittura fa una conferenza stampa per spiegare che quando Bonucci appoggia la testa con fare minaccioso sulla sua tempia non era un atteggiamento riguardoso nei suoi confronti. Ma di che stiamo parlando? Poi abbiamo Tavecchio, ho trovato un vostro collega Cruciani in un albergo, a fare una trattativa con un radiato condannato per associazione delle riunioni come Giraudo sul risarcimento della Federazione Juventus, sul contenzioso. Questi sono comportamenti evidenti da paesi, da non da terzo ma da quinto mondo. Dal punto di vista sportivo, questo non c'è, è ineludibile, se no ci raccontiamo una storia che non esiste. Allora, questo è uno. Sentiamo anche Domenico, così poi lasciamo l'abate Pardo rispondere. Dica, buongiorno. Dica. Allora, sono juventino fin dentro l'anima, lo premetto subito. Però la colpa dell'Inter, del Milan, del Napoli, della Roma è non fare la programmazione che ha fatto la Juve. Se stiamo vincendo il sesto scudetto consecutivo è perché la Juve ha programmato. La Juve è più forte di tutti. È più ricca e basta di tutti. Attaccarsi a tutto. basta, la volete smettere, sì o no? Quelli lì sono rigori che si potevano dare e non si potevano dare. L'arbitro ha deciso di non darli perché in quella frazione di secondo ha deciso che il rigore non andava dato. Se andava dato c'erano polemiche magari dalla parte della Juventus. Allora, mettetevi in testa di fare delle programmazioni invece di fare delle polemiche. La Juventus sono 5 anni che vince. Poi parliamo anche di programmazioni. Sì, poi parliamo anche di programmazioni che in altri luoghi non è così semplice. Non è così semplice fare. Quello che dice l'abate, quello che dicono diciamo i polemici è che tu puoi fare tutta la programmazione del mondo, però se ci sono delle situazioni nelle quali vai vicino a un'impresa, sicuramente l'Inter di ieri ha giocato alla pari, lo dicono anche i numeri, oggi Capuano ha twittato mi pare 12 tiri in porta, sono il record assoluto di una squadra contro la Juve allo Juventus Stadium, quindi sì. Sicuramente se ci vai così vicino e poi hai la possibilità e non ti viene dato qualcosa, ora ribadisco, nello specifico secondo me era più no che sì, però la situazione di Mandžukić secondo me era la situazione diciamo più borderline fra tutte. Sì. Sulla programmazione complessiva non c'è dubbio, cioè che la Juve sia la dominatrice degli ultimi anni non c'è discussione, è una società che si è rimessa in piedi dopo Calciopoli, è ripartita dal basso e ha fatto delle cose straordinarie, però questo immagino l'abate dice non è che mette in discussione questo, è che magari voleva andare sull'1-0 ieri con un calcio di rigore, penso che sia così Tommaso, no? Io assolutamente sì, ma col secondo ascoltatore Domenico io sono pienamente d'accordo, gli potrei rispondere che noi reduci praticamente dalla scampagnata di Ferragosto senza programmazione e con De Ber che sarebbe stato esonerato con l'ignominia che sappiamo, all'andata abbiamo giocato come sappiamo con la Juve con i risultati che sappiamo tutti, però io non metto in dubbio la forza della Juve dal punto di vista societario, dal punto di vista dello stadio, dal punto di vista del management, dal punto di vista persino dell'allenatore. Io ho sempre sostenuto che Allegri è il miglior allenatore su piazza, l'ho sempre detto, l'abnegazione con cui gioca Mandžukić, non la discuto. E non discuto neanche del risultato di ieri sera, mi interessa poco, basta che non mi si prenda per matto se io sostengo che ieri sera c'erano due rigori con la Juve e che questi rigori poi che potevano essere fischiati non sono stati dati, non mi ricordo quello che non faccio la cronistoria di quello che succede alla Juve, io faccio la cronistoria di quello che vedo io. Sì, ma sei soddisfatto dell'Inter che hai visto ieri sera o no Tommaso? Lascia stare quei due rigori lì. Se sono soddisfatto no, perché io quando vedo una squadra che gioca con una squadra abituata a giocare storicamente e con dei risultati con la difesa a 4 che gioca con la difesa a 3 io non sono soddisfatto, ecco perfetto, da questo punto ripartiamo, sono contro la difesa a 3 anch'io, facciamo finta che sia la criptonite per Superman, la criptonite può essere un elemento favoloso per tutti, da per questo Superman punto, no. Per me la criptonite è la difesa a 3, da questo punto, ripartiamo subito dopo il traffico e poi ho un altro argomento per te, quasi come nei tuoi panni abituali di giornalista politico. Tutti convocati. Robbo. Tutti convocati. Allora, Renato, tra un attimo arriviamo così come da Paolo, però prima con Pardo e l'abate volevo affrontare questo tema. Pioli ha sbagliato qualcosa ieri sera? Secondo me sì, nel modificare una squadra che lo aveva portato fin lì. Io fin lì vado con i miei uomini, quindi senza spostare, senza cambiare il modulo, senza spostare Muriglio sulla sinistra dove lasciavo Ansaldi tranquillamente, senza togliere la coppia con Dombia Gagliardini. Questo è il mio pensiero, non so il vostro. Io lo sottoscrivo, se andiamo davanti a un notaio e tu metti per iscritto quello che hai detto, ci metto una firma sopra, il timbro, mostro il documento, sono perfettamente d'accordo. Cioè, ieri sera avremmo potuto perdere 5-0, sia chiaro. Tu hai sacrificato praticamente le cose migliori che hai fatto vedere l'Inter all'inizio di quest'anno, cioè questa diga a centrocampo fatta da Gagliardini e con Dombia. E soprattutto la spinta sulle fasce che ti garantiscono Perisic e Candreva, che di fatto ieri hanno giocato la loro peggiore prestazione. Esatto. E Narcotizzi praticamente cade, molto probabilmente, ma non stiamo a fare, non si può fare la storia coi secoli, ma Quadrado non sarebbe stato solo nel momento in cui ha calciato quel pallone contro la porta non so, era molto rapido. Questo io non so dirlo. Di certo io preferisco giocare in una maniera che non contempli la difesa a tre. Io farei come nell'NBA, dove è vietato la marcatura ad uomo, la stessa cosa. Calcio, un gioco che si gioca in 11, non si può giocare con la difesa a 3. Fine, top. Sì, ma al di là della difesa a 3, io sono rimasto sorpreso anche dagli interpreti, perché come ci diceva ieri Zaccheroni, peraltro, io vado lì con la squadra che mi ha portato fin lì, con gli interpreti che mi hanno portato fin lì. Sì, è anche vero che era, sono d'accordo, è anche vero che però poteva essere la partita invece nella quale ti serviva a sparigliare, ti serviva a fare qualcosa di extra, no, ti serviva a secondo me no. Non lo so, ma io ti dico, l'Inter secondo me la partita non l'ha sbagliata, insomma, ha avuto non l'ha sbagliata. Se diciamo che l'Inter ha fatto una bella figura ieri, allora mettiamoci d'accordo, per me ha fatto una bella figura. Ma anche secondo me, però non sarei andato con quella formazione, sarei andato con quella che l'ha portata fin lì, e ha ragione Tommaso Labate, cioè io sono d'accordo con lui. Sì, però adesso fa mettermi a discutere la scelta di Pioli, cioè non esagererei. Pioli sta facendo un buon lavoro, un ottimo lavoro fino a questo momento, ha cambiato delle cose, secondo me ha ammesso che abbia sottovalutato inconsciamente la partita di Coppa Italia, l'errore vero l'ha fatto lì, perché quella era una partita, l'abbiamo detto l'altro giorno, che poteva aprire all'Inter la possibilità concreta di andare magari anche a vincere un trofeo in questa stagione. Quindi secondo me è più grave quella sconfitta lì e quella prestazione lì rispetto a quella di ieri. Quella di ieri è stata una prestazione discreta, con la Juve che nel primo quarto d'ora ha avuto due palle gol clamorose, poi però l'Inter ha preso campo, ha avuto le sue occasioni, è stata partita, in casa della Juve perdono tutte, è la 28ª volta consecutiva che la Juve vince in casa. Io non credo che l'Inter debba rimproverarsi più di tanto, e penso che ieri abbia dimostrato ai suoi tifosi che la strada è quella giusta, e credo anche dal punto di vista economico-societario, io ecco, se pensiamo a chi ci sarà come antagonista della Juve, io l'Inter la vedo molto bene, cioè, mi sembra il progetto dal punto di vista economico, dal punto di vista diciamo proprio di società in questo momento un po' più, io pure. Più solido, ovviamente assieme a Roma e Napoli, però... Allora volevo andare un attimo, prima di salutare Tommaso Labate, volevo andare un attimo su un altro argomento, perché ieri insomma a Roma siamo in piena campagna elettorale, sta parlando Mangiante, cronista di Sky, di altre cose, irrompe Spalletti così. Sarà con un modulo a tre in difesa, un centrocampo a quattro con la spinta sulle ali dei due brasiliani, Emerson e Bruno Perez. Angelo, e poi ce l'ho io l'argomento. Eccoci qua, vediamo. Ce l'ho io l'argomento oggi. Eccoci. A Roma va fatto lo stadio. Famo sto stadio. E non solo a Roma. Lo stadio, gli stadi vanno fatti per tutte le squadre in tutta Italia. È l'argomento d'oggi. Sì, è l'argomento d'oggi, di ieri e di domani, Tommaso Labate. Famo sto stadio, l'ha twittato poi Totti, che è stato invitato in Quirinale, Spalletti in settimana... In Campidoglio naturalmente. Quirinale stiamo aspettando, ma Spalletti è in piena corsa per il Campidoglio, mi pare, dopo aver promosso l'abbattimento delle barriere all'interno dello stadio, adesso famo sto stadio. Perfettamente d'accordo con Spalletti, d'accordo con tutte le ricette, gli incentivi che ovviamente nel perimetro dell'onestà e della correttezza, del rispetto delle regole, sia chiaro, questo mi sembra persino pleonastico sottolinearlo, però in questi tempi è meglio sottolinearlo, e gli stati di proprietà vanno fatti. Il calcio italiano deve dare una risposta da questo punto di vista, e a me fa piacere, ho sentito da tante scemente che sentono in giro delle cose bellissime che ha detto Ruud Gullit proprio da Pierre in TV due settimane fa, dicendo che era venuto col figlio a vedere un Milan, non mi ricordo contro chi, e si era sorpreso di portare solo questo ragazzino nei campi dove lui imperversava tra 70.000 persone, e portarlo in uno stadio semideserto. Abbiamo bisogno degli stadi, perché abbiamo bisogno dei tifosi. Senza tifosi non esiste il calcio. Il calcio diventa wrestling. D'accordissimo. Sul progetto, poi possiamo discutere sul progetto presentato a Roma, perché ci sono, lo sappiamo, leggendo i dossier, delle cose che non vanno bene, dalle infrastrutture previste ai posti per gli handicappati, insomma non è un progetto compiuto e perfetto, questo possiamo tranquillamente dirlo. Lo si faccia compiuto perfetto, ma lo si faccia, sappiamo perfettamente anche che in Italia è difficile. Carlo, lo si faccia, io ti do la verità, premesso che non sono Mannheimer, però Io ho fatto un paio di tweet sull'argomento e mi sembra che il clima sia molto forte in questo momento, cioè mi sembra che ci sia un grande consenso. Io credo che ma a certo. questa giunta, che è una giunta che si è proposta come una giunta campione, campionessa di onestà, i cittadini romani, che ci vuole grande rispetto ovviamente per chi è stato eletto, perché è stato eletto con tantissimi voti, credo che si chieda a questo sindaco e a questa giunta di gestire, proprio perché ci sono loro e proprio perché loro si sono stati eletti, probabilmente anche perché sono stati visti come garanti dell'onestà, sì. che facessero da garanti, ma che le cose si facciano. Perché altrimenti, se uno deve essere eletto come sindaco, lo dico in qualsiasi città italiana, per bocciare aprioristicamente qualsiasi idea, no, ma è chiaro, Pierluigi, ma invece ma, proprio perché ci sono loro, che chiaro, comunque sono stati eletti per questo motivo, immagino tante persone, no? Proprio perché vogliono, perché possono, poi non lo so se lo saranno, i chiari di ruolo non sono straordinari, ma almeno teoricamente potrebbero rappresentare qualcosa di nuovo rispetto a corruzione e storia del passato. Visto che ci sono loro, a maggior ragione dovrebbero essere una garanzia per poter fare le cose, ripeto, sì. il perimetro ovviamente della fattibilità dell'onestà. Della fattibilità dell'onestà, ma a Roma, chi non vorrebbe, a chi non vorrebbe, ci servono gli stadi, ma è chiaro, le società di calcio hanno bisogno di patrimonializzare. Quale tifoso italiano non vorrebbe uno stadio di proprietà della sua squadra? Quale? Nessuno. Abbiamo poi anche un altro argomento, che è quello di Veltroni, vicinissimo alla presidenza della Lega, manca un voto, ne ha potenzialmente 13, ne servono 14, ne manca uno da parte delle sei grandi, guarda caso. Tommaso, arriverà. Carlo, su questo? Eh? Posso dire la mia su questo? Certo, devi. Spero che la mia squadra, l'Inter, dia a Veltroni il voto che manca per la pensando. Per la maggioranza assoluta, perché ovviamente è difficile valutare le persone, i loro pedigree, il loro curriculum, però io penso che una persona come Walter Veltroni in questo momento sia il meglio che il calcio italiano delle serie maggiori possa ambire. Io spero sinceramente che Veltroni abbia il voto che gli manca, che accetti, e quindi questo dimostra che sono di parte. Walter, come è noto, è juventino, però io penso, lancerei la campagna, quel tipo di juventino rappresenta anche me e quindi anche l'Inter, spero che l'Inter dia il voto, che sia la mia squadra a dargli il voto che manca. Ragazzi, grazie Tommaso Labate, ciao Pier, ci vediamo stasera sugli schermi. Renato, se non si è spazientito, stia lì. Fabrizio da Vicenza pure, GR, e poi torniamo con il Milan, con il Super Bowl, con un sacco di altre cose. Convocati. 30 secondi della vostra attenzione, per favore, perché dal 1 febbraio Cuore Denari inaugura La Salute Vien Parlando. Sottotitolo: I mesi della prevenzione. Un viaggio con gli specialisti di Humanitas lungo tutto il corpo umano per imparare a investire in salute. E per ottenere rendimenti sicuri. Ascoltateci ogni giorno, allora, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12. Su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. Tutti convocati. C'è chi si solleva contro l'ipotesi più che probabile di un Veltroni nuovo presidente della Lega, puntando sul fatto che è juventino, basta Juventino al potere, tanto più un ex comunista come Veltroni, scrive Ulisse, che è interista. Anche Veltroni benissimo, adesso aspettiamo il can come vice, Juve come al solito padrone in tutti i sensi, ho la nausea. Mi sembra che Tommaso Labate, che invece di comprovata vede interista, la pensi in una diversa maniera, non tanto focalizzandosi sul fatto che Veltroni sia juventino. Comunque sono discorsi che faremo. Carino questo messaggio. Ho acceso adesso e ho sentito parlare di nuovo stadio a Roma, ma a quest'ora non dovrebbe esserci tutti convocati e non Alice nel paese delle meraviglie? Renato, io la ringrazio per un'attesa lunga quanto quella dei tartari nel deserto, ma alla fine noi arriviamo. Buongiorno. Sì, salve, buonasera. Dispiace tornare un attimo sui rigori, so che siete stanchi, volevo fare un discorso un po' diverso. Secondo me non è neanche questione di essere juventini o interisti, ma più che altro è questione di capirne un po' di calcio. Secondo me Pioli ha fatto bene a parlare, perché di calcio ne sa molto, essendo stato poi un ottimo difensore, sa quello che succede in area di rigore. Sì. E volevo soffermarmi su Chiellini. Chiellini secondo me è il giocatore in assoluto più scorretto della Serie A. Sarà perché è anche sgraziato nei movimenti e così, ma fa delle cose in area di rigore che nessuno fa, nessuno è permesso di fare quello che fa Chiellini. Cioè io non riesco a capire queste cose qua. Se Chiellini giocasse nel Crotone o nel Palermo, fischierebbero contro due rigori a partita, ma è matematico, perché si attacca, è un polipo, è una roba. Cioè io non neanche Gentile ai tempi d'oro era così. Cioè io non ho mai visto un difensore così. Come fanno a permettergli tutte queste cose agli arbitri? Per me è assolutamente incredibile. Renato, lei ha in parte ragione. C'è poi da fare una sottile distinzione, sottile ma determinata distinzione, tra l'essere falloso e il giocare in modo fisico. Questo non vuol dire che Chiellini sia un giocatore che ci va, che va col fioretto, va con la sciabola, e questo lo sappiamo tutti. È un giocatore però che gioca molto sulla fisicità. Questo lo possiamo sottoscrivere, no? Al di là del fatto che poi i suoi gialli li prende, che gioca anche in Europa dove magari gli consentono di meno, e questo è un altro dato di fatto. Però c'è chi gioca in modo molto ruvido, molto fisico. Gattuso non giocava non era un fiorettista, giocava in modo molto fisico, certe volte oltre il limite del consentito, e come tale veniva punito spesso, a volte no. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, volevo dire al signore lì Renato che forse si è dimenticato di come giocava il suo idolo Materazzi, probabilmente, a proposito di giocatori ruvidi. Sì, ma a parte questo, perché mi ricordo ancora un'entrata sulle ginocchia di Ibrahimovic o di Materazzi quando giocava ancora Ibrahimovic con la Juventus. Ma ci sono giocatori, ecco, che giocano. Allora, la differenza tra essere fallosi e l'essere fisici. Meneghin, tanto per dire, un giocatore di un altro sport che ha fatto epoca, era un giocatore che giocava molto fisicamente, certe volte spesso usciva per 5 falli, non tutte le partite usciva per 5 falli, per fortuna di Milano, di Varese, della nazionale italiana. Chiellini certo non è uno che ripeto, non è un fiorettista, però c'è una differenza che è sottile ma determinante tra il giocare in modo fisico e giocare in modo scorretto. Questo è semplicemente questo che intendo. Altro da aggiungere, Fabrizio? Volevo dire due cose velocissime. La prima, ieri il migliore in campo dell'Inter è stato Handanovic, vorrà dire qualcosa. Invece Buffon nel secondo tempo è non pervenuto, cioè 12 tiri in porta della Juventus, io vorrei sapere dove li hanno visti, forse verso la porta, ma 12 tiri in porta comparati a Buffon li ha visti in un'altra partita, non ieri sera. Nel secondo tempo non hanno mai tirato in porta, mai. Ecco, a proposito di Veltroni, volevo dire anche un'altra cosa, per carità, basta, ne ha già fatte abbastanza quello lì, ma è possibile che non ci sia qualche nome nuovo, qualche persona più giovane, preferirebbe meno... Galliani? No, qualcuno di giovane che non c'entra, basta con questi vecchi, madonna, ne hanno fatti abbastanza guai gli ex statottini, lasciamoli a casa, basta, prendono delle belle pensioni, basta così. Basta, grazie, anche se è juventino non me ne frega niente. Basta. Né lui né gli altri compagni di parente. Guardi, siamo d'accordo sul fatto che l'Italia non è un paese per giovani, però il nome di Veltroni alla presidenza della Lega, io sono d'accordo con Tommaso Labate, a me non dispiacerebbe. Poi sono discorsi che andremo a fare. Intanto facciamo un bel processo. E per forza ho dovuto chiamare un avvocato che è anche un ex giocatore e un ex milanista. Mario Ielpo, buongiorno. Buongiorno, grazie per questa solenne presentazione, grazie. Molto solenne, caro Mario. Sei d'accordo sul fatto del discrimine prima di processare Montella? Sei d'accordo sul discrimine tra il giocare fisico e l'essere falloso a tutti i costi? Ma essere falloso è una cosa controproducente per la propria squadra, quindi... No, ma per esempio Franco Baresi, che conosci molto bene, era un giocatore che non giocava col fioretto in mano, giusto? Certo. Quindi. Quasi tutti quelli non giocavano con Fioretti in mano di quella squadra, quasi nessuno direi, anche non so il più tecnico degli italiani tipo Donadoni non era uno tenero. No, ma questo non vuol dire il giocare per forza in modo sempre e in ogni caso e a prioristicamente scorretto. Su questo punto sei d'accordo? Sì, insomma, il difensore si arrangia con le buone e con le cattive, no? Quindi è evidente che il calcio ha una componente di gioco dove il gioco appunto non di puro sport leale, dove le furbizie cercare di avvantaggiarsi sull'avversario ci sono sempre state, quindi questo vale per il difensore, sentivo parlare di Chiellini, ma vale anche per gli attaccanti che fanno le loro furbate in altro modo. Prima. In altro modo. Allora, processiamo Montella, capi d'accusa. Sentiamo cosa da dire prima l'imputato, poi risponde il difensore. Montella, nulla da rimproverare a questa squadra. Io dico, ho visto una squadra che anche oggi ha fatto una grande partita, dove ha velocizzato sicuramente di più il gioco nel secondo tempo. Ragazzi, non posso rimproverare nulla se non che hanno fatto una grande partita portando avanti le varie situazioni di gioco. Stiamo creando tanto, anche oggi abbiamo creato tanto, è un periodo così, è difficile da spiegarlo, bisogna andare avanti, avere la forza di andare avanti e avere una serenità adeguata per proseguire su questo cammino che secondo me è la strada giusta. Se la strada giusta è una vittoria con il Cagliari l'8 gennaio, un pareggio col Torino 2-2 il 16 gennaio e tre sconfitte Napoli, Udinese e Sampdoria, mettiamoci anche la Coppa Italia. Mario? Ma devo difendere Montella, lo difendo se queste sono le dichiarazioni ufficiali che deve fare, perché insomma secondo me il gioco conta poco nello sport, cioè giocare bene conta poco, uno sport che finisce 1-0 massimo quando insomma succede qualcosa di clamoroso, non so, 2 pari o 4 pari, quindi sono gli episodi a decidere le partite. Fare errori clamorosi come ha fatto ieri il Milan e come ha fatto nelle altre sconfitte che ha subito, insomma è una cosa grave, non è una cosa da poco. Alla fine il risultato fa giurisprudenza, mi insegni, quindi sì, difficile, no, ma difendere quello, ma non è dire abbiamo giocato bene, abbiamo creato. Non è il modo di analizzare secondo me le partite. Posso capire che l'allenatore pensi a quello, secondo me prendere un rigore come quello che ha preso il Milan, cioè con uno svarione di un centrale e con un'incredibile entrata dell'altro centrale, insomma ce l'hanno messa tutta per questo rigore. Sì, ce l'hanno messa tutta. Altro capo d'accusa, la dieta, famosa dieta imposta al Milan. Montella: siccome anch'io devo essere da esempio, anch'io mangio in questo modo quando sono qua, poi a casa posso mangiare la bistecca, i calciatori possono mangiare la bistecca, possono mangiare quello che vogliono, anzi devono mangiare quello che vogliono, ma quando sono qua sono di mia responsabilità e si fa quello che è più giusto rispetto al nostro livello di professionalità. Poi Galliani ha detto che è dimagrito 0,5 chilo in un giorno, però questo può essere un capo d'accusa minore, no Mario? No, penso che questo mi sembra una cosa insignificante, anche perché il Milan non mi sembra che le sinergie in campo per quelle che ha, nel senso che se si può fare un capo d'accusa al Milan è quello di avere fatto la squadra senza grandi giocatori fisici. Questo però è un po' il tipo di calcio di Montella che io non condivido, perché va bene che ci vuole fantasia, va bene che ci vuole, però a me tanti flufru in campo piacciono fino a un certo punto. Mi piace più il giocatore di fisico, insomma, per tornare ai miei tempi, io mi ricordo un gol che ho preso a Cagliari contro il Milan quando io giocavo nel Cagliari e non nel Milan, e io sul calcio d'angolo avevo davanti Gullit, Maldini, Rijkaard e Van Basten, praticamente un muro. Non vedevo quello che batteva a calcio d'angolo, giuro, io sono 1,85, ma non vedevo quello che batteva a calcio d'angolo. L'ha messa tesa in mezzo, sono uscito, ho rimpallato con uno e Paolo, mio amico Paolo, mi ha segnato sul rimpallo. Sì, lo facevano spesso, perché quelli sono quelli che dal punto di vista fisico, secondo me, i giocatori che hai citato sono quelli che Gullit era qui seduto vicino a me qualche giorno fa, sono quelli che hanno in qualche modo rivoluzionato il calcio. Terzo capo d'accusa, Bacca, che ieri è uscito dal campo strillando. Montella: No, questo non so se abbia, allora guardo, se abbia urlato, se abbia urlato contro lo staff, se abbia urlato contro se stesso. E io questo non lo so, le scelte spettano a me e lui deve fare il suo dovere sempre come ha fatto fino ad oggi sia in allenamento che in qui. Quindi è ovvio che un calciatore non voglia mai uscire dal campo, ma non mi sembra che abbia fatto niente di particolare. Si sente neanche, non si vede neanche il labiale, quindi c'è chi ha fatto peggio. Cioè, chi ha fatto peggio, fatto sta che Bacca, che ritengo un buon giocatore, è quanto di più inadatto ci sia a questa squadra. Beh, mi sembra evidente, è un giocatore che fa un po' fatica. La squadra di Montella, almeno come vorrebbe lui, hanno nel fraseggio stretto il loro punto di forza. Bacca fa fatica a stoppare la palla, cioè poi bisogna anche dire le cose. La di destra lo stoppa abbastanza, di sinistra non lo sa stoppare. Mm-hmm. E quindi dialogare nello stretto, così si può fare l'1-2 al volo se gli riesce, ma è un colpo. Non ha quella dimestichezza, quell'abilità di, non so, che può avere Mertens, se vogliamo paragonarlo. A un giocatore che potrebbe piacere a Montella in quel ruolo tantissimo, secondo me. Quindi non va bene, non sono d'accordo con te, non va bene con il gioco del Milan, soffre lui e soffre la squadra. Quindi si vede chiaramente. Quindi diciamo a gennaio Montella non possiamo assolverlo. Mario, ci sentiamo a febbraio e vediamo cosa succede. Cioè, siamo già a febbraio, a fine mese. Ciao Mario Ielpo. Mi ha raggiunto Giuseppe Cruciani, andiamo con la clip. Overload the right side of the Patriots offensive line. Pass is picked. Intercepted. Robert Alford. He's gone. There are no flags. And the Falcons add to their lead. Good snap. Good hold. Kick is good. Out of the shotgun. Ryan gets hit. Ball is out. This is a fumble. New England has it. Extra men on the rush. Ryan steps through it. Throws on the run, and Jones with a catch. Phenomenal catch by Julio Jones on the sideline. Down inside the 10. Hand off. Touchdown, James White. Toss to White. He's in. Patriots win the Super Bowl. Brady has his fifth. What a comeback. Allora, ieri sera a Giuseppe Cruciani è successo qualcosa di mai visto. Una settimana dopo un evento epocale come la vittoria di Federer, esattamente una settimana dopo, a Houston è successo qualcosa che nella storia dello sport non si è mai visto. Ti avverto che c'è in linea anche il tuo e mio amico Guido Bagatta. Ciao Guido. Ciao. Buongiorno a tutti. 21-0 per Atlanta. No, poi 28-3. Poi 28-3 all'intervallo e Tom Brady. No, all'intervallo 21-3, credo. 21-3. Credo, cioè non è importante. Non è importante. Tom Brady in lacrime all'intervallo in panchina. Poi? Beh, no, in lacrime alla fine. No, all'intervallo sconvolto, terreo sconvolto, quasi. Sì. Non so se Guido l'ha raccontato in telecronaca, lui l'ha fatta direttamente. Io ho solo commentato gli intervalli tra un commento originale e no. E la faccia di Brady fino alla praticamente fino al sec, al placcaggio del quarterback di Atlanta, che ha rimesso in gioco un po' tutto, era quasi funerea, no Guido? Cioè era praticamente, sembrava quasi malato, non so, quasi con la febbre o no? Sì, intanto ufficializziamo che con Cruciani che parla, peraltro con estrema razza di football americano, io dalla prossima settimana sono il prossimo conduttore di Politics su Rai 3. Ma no, non faresti, diciamo che non faresti peggio di quello che c'è stato. Non è vero, Semprini è bravissimo, ma questo è un altro discorso. Parliamo invece di quello bravo vero, che è Tom Brady. La differenza l'ha fatta tutta lui. Ieri in telecronaca si parlava di quanto può cambiare un Super Bowl per il quarterback rispetto a altri sport dove un giocatore può fare la differenza, calcio, basket. Il football americano dipende al 70% da un quarterback, e l'abbiamo visto ieri. Lui, campione, il migliore probabilmente di tutti i tempi, o comunque dei tempi che stiamo vivendo,

con le trasformazioni a due punti, con, certo, tra l'altro, certo, ricordiamo che New England ha sbagliato un punto addizionale, sì, con Goskowski, certo, che poteva no, cambiare la storia di no, tutto quanto, poteva finire, perché poi trasformare a due punti è difficilissimo. Grazie, vi devo salutare perché sennò mi sfumano. Guido, sfumiamoci, cioè, tutti insieme. Sfumiamo anche Cruciani che fa una buona cosa una volta. Sfumiamoci tutti insieme. Ciao. Ha deciso di fare lo spiritoso. Ciao ragazzi. Ciao. Cuore Denari è una grandissima situazione che potrebbe essere molto molto positiva per me, per la mia famiglia. Non ci sposteremo di molto, ma io in Italia non voglio, non me la sento di indossare altre trasmissioni.